During today's Satna Dhamma Talk, we shall continue to build a good Satna foundation in terms of a basic understanding of what the practice is all about. So providing you, with all the different bits and pieces, with the tools that are necessary to do this practice in a meaningful manner. Stasera continueremo a fornire le basi per una corretta comprensione della pratica e quindi fornirò gli strumenti perché si possa avere una pratica significativa. Now, this morning we ran out of Satna time and Satna, so there's a little bit left on the attitude towards practice, and so we'll finish, we'll do that first before moving on to the basics of Satipatthana. E prima però di procedere con il discorso e quindi trattare dei fondamenti, delle basi della Satipatthana, parlerò prima di quello che è rimasto dal discorso di questa mattina, e cioè l'attitudine nei confronti della pratica. No. When we engage in intensive Satna meditation practice, then it's important that we do so in a really balanced way, and trying to stay away from extremes as much as possible. Quando ci avviciniamo a una pratica di meditazione intensiva, è importante che lo facciamo in un modo più possibile bilanciato, e quindi stando lontani dagli estremi. So, the practical aspects set here are that we ensure to drink enough liquids, and especially as it is suddenly getting warmer, and then in terms of food consumption, that we eat a moderate amount of food, neither too much nor too little. Da un punto di vista pratico, una cosa a cui prestare attenzione è di bere la giusta quantità di liquidi, specialmente adesso che il clima si sta facendo più caldo, e assumere una quantità di cibo moderata, quindi non troppo e non troppo poco. We also want to make sure that we don't end up constipated for three or more days. And suddenly, should you get a problem with constipation, then either use laxatives that you possibly have brought along, or else there are certain exercises that can be done, and I'll be happy to explain those. E un'altra cosa è di fare in modo di non incorrere in problemi di constipazione per 2 o 3 giorni, e quindi nel caso in cui questo accada, assumete dei lassativi che potete aver portato con voi, o altrimenti ci sono degli esercizi che si possono fare e che posso spiegarvi. In terms of sleep, it's important to get enough sleep so that one can do the meditation practice properly. In the course of a retreat, however, the need for sleep changes at times it certainly lessens, at other times it might increase. È anche importante avere la giusta dormire il giusto numero di ore e in modo da poter praticare poi con efficacia e va comunque tenuto in considerazione che durante un ritiro il numero di ore di sonno di cui si ha bisogno può variare, a volte serve meno sonno, a volte invece la quantità di sonno necessario può aumentare. The Venerable Hasi Sada of Phutna Burma has certainly recommended sleeping or keeping the sleep limited to 4 to 6 hours per night. That's one indication, and we should definitely make it a point not to deliberately deprive ourselves of Phutna sleep. Il Venerabile Mahasi Sayadaw ha consigliato, ha indicato di mantenere le ore di sonno tra le 4 e le 6 ore e quindi possiamo tenere questa come indicazione. E un'altra cosa è di non deliberatamente privarsi di ore di sonno. What else? Certainly in terms of Phutna thinking, retreatants who are new to this mindfulness practice might certainly be under the impression that there should be no thoughts arising in one's meditation whatsoever, and then they try to achieve that state. And